Della recente legge che disciplina le future campagne elettorali, quasi tutti, compresi noi, hanno notato soprattutto l'articolo che, con il pretesto di porre un limite ai contributi finanziari che i candidati possono accettare, depenalizza di fatto il sistema delle tangenti, come può notare chiunque osserva in TV il nuovo atteggiamento dei boss politici chiamati a testimoniare al processo Cusani. Un po' sotto silenzio, invece, è passato l'articolo che proibisce severamente qualsiasi sondaggio, anzi la loro pubblicazione, nelle due settimane precedenti l'apertura delle urne. Praticamente nessuno che non fosse professionalmente interessato alla questione ha avuto niente a tradire. Peccato, perché anche quel divieto presenta un certo interesse. Tanto per cominciare, di qualsiasi norma che vieti di rendere pubblico qualsiasi cosa, ci sono sempre ottime ragioni per diffidare. E poi le motivazioni addotte e accettate per emanarlo non possono che lasciare perplessi. Il problema, è stato detto, è quello di evitare che i sondaggi influenzino il comportamento elettorale, cioè probabilmente di impedire che qualcuno non voti secondo i dettami della coscienza o dell'ideologia o dell'interesse di classe o di un altro motivo buono, ma orienti la propria scelta in rapporto alle tendenze del corpo sociale che il sondaggio ha il compito di rendere note. Cioè di impedire in definitiva che qualcuno decida di saltare sul carro del vincitore o, al contrario, come sembra aver fatto Cossiga nel ballottaggio alle municipali romane, si impietosisca di fronte alla troppa debolezza del vinto. Norme in tal senso, ci si assicura, esistono in legislazioni elettorali di molti paesi, tra cui la Spagna e il Costa Rica. Ora, con tutto il rispetto dovuto alla Spagna e al Costa Rica, dovrebbe essere ovvio che la motivazione di chi decide di votare per qualcuno perché così fanno molti altri formalmente è assolutamente valida come qualsiasi altra, e che comunque non è compito del Parlamento valutare le motivazioni degli elettori, e ci mancherebbe altro. Al massimo potremmo dire che chi si fa influenzare, chi vota seguendo i sondaggi, non dimostra una particolare convinzione ideologica né un'astuzia strategica degna di nota, che in parole povere è un po' scemotto. Ma appunto, il senso di quel divieto è quello di proteggere gli elettori da se stessi e dalla propria mancanza di convinzione ideologica, e di impedirgli di fare delle sciocchezze di cui si pentiranno, di aggregarsi tutti come fossero pecore alla maggioranza. È una bella opinione che hanno dimostrato davvero i nostri parlamentari di noi elettori, no? Approvando la nuova normativa ci hanno dato esplicitamente a tutti del cretino. E in fondo, se pensiamo che per tutto questo tempo abbiamo votato per loro, un po' ce lo siamo meritato.